Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 27 febbraio 2015, dall'idea di una liceale arrivano le scarpe che ricaricano il telefonino. Basta fare una passeggiata per restituire energia allo smartphone o al lettore MP3. E tutto grazie ad un paio di scarpe che si chiamano come il dio greco Hermes e che sono state ideate 5 anni fa da una liceale di Monsummano, Irene Chirico. Insieme alle sue compagne Alessia Nannini, Giulia Tucci e Cecilia Pellegrini, Irene ha realizzato la sua idea partecipando al concorso ENV Factor del CNR, che punta a selezionare giovani inventori. Con il supporto del CNR di Pisa e la disponibilità di un'azienda di calzature di Monsummano, le scarpe a recupero energetico sono diventate un prototipo funzionante. 3 anni fa è arrivata una grande azienda che ha trasformato l'idea in business. E ora il brevetto di Irene Chirico corre, cammina e recupera energia per le strade di tutto il mondo. Fin qui la notizia del 27 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Irene Chirico, che da poco ha compiuto 18 anni, dice che l'idea delle scarpe energetiche le è venuta facendo una corsa nel verde. All'interno del tacco della scarpa c'è un piccolo meccanismo che si chiama solenoide, che fa oscillare, grazie all'inerzia praticamente, un magnetino. Una variazione della posizione di questo magnetino provoca una differenza di campo magnetico. Differenza di campo magnetico provoca corrente elettrica. E quindi se noi muoviamo un magnete e abbiamo un filo conduttore nei pressi, allora abbiamo corrente. Quindi inserendo questo, poi un circuito elettronico per avere una corrente continua invece che alternata, siamo riusciti ad avere un meccanismo che possa recuperare l'energia della camminata e della corsa. E poi questa energia può essere utilizzata con una pratica porta USB per telefoni, iPod, lettori musicali, qualsiasi cosa. Abbiamo visto che camminando, correndo, perché basta soltanto oscillare il piede, quindi non è neanche fondamentale correre, per circa 2 ore o comunque 1 ora e mezza, si ricarica circa metà di un lettore musicale. Ma questo è proprio quello che io voglio fare da grande, cioè inventare cose carine che possono essere anche utili. Infatti all'università andrò a fare ingegneria o nel ramo chimico o nel ramo meccanico, quindi rimarrò comunque nell'ambito di inventore di cose grandi. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.